Per questo la liturgia è qualcosa di dato, di prestabilito? Sì, non siamo noi a fare qualcosa. Non noi mostriamo la nostra creatività, dunque tutto quello che sapremmo fare. Perché la liturgia non è uno show, non è un teatro, non è uno spettacolo, ma trae la sua vita da un altro. E questo deve anche divenire evidente, per questo la forma liturgica prestabilita è così importante. Questa forma può essere riformata nello specifico, ma non è ogni volta producibile dalla comunità. Come detto, si tratta non di produrre da sé, si tratta di uscire da sé per darsi a Lui e farsi toccare da Lui. In questo senso è importante non solo l'espressione, ma anche il carattere comunitario e unitario di questa forma. Essa può variare nei diversi riti, ma deve sempre avere ciò che ci precede e che proviene dalla pienezza della fede della Chiesa, dalla pienezza della sua tradizione, dalla pienezza della sua vita e non scaturisca semplicemente dalla moda del momento. Significa che dobbiamo restare nella passività? No, perché proprio questa impostazione ci sfida a lasciarci trarre fuori da noi, dalla semplice situazione del momento, ad abbandonarci alla pienezza della fede, comprenderla, prenderne intimamente parte, conferendo anche alla celebrazione eucaristica quella forma decorosa per la quale diventa bella, diviene una gioia. Questo è accaduto in misura particolare in Baviera, ad esempio attraverso la grande fioritura della musica sacra, oppure attraverso l'esplosione di gioia nel rococò bavarese. È importante che al tutto si conferisca anche una forma bella, ma sempre al servizio di quello che ci precede e non come qualcosa che innanzitutto dovremmo fare. Per quel che riguarda la sacralità dell'Eucaristia, lei una volta ha affermato che non c'è alcuna libertà di azione. Essa sarebbe il fulcro e il cardine di ogni rinnovamento. Cambiamenti spirituali sarebbero possibili unicamente a partire dallo spirito dell'Eucaristia. Se è vero come noi crediamo che nell'Eucaristia Cristo è realmente presente, allora questo è l'avvenimento centrale per eccellenza. Non l'avvenimento di un solo giorno, ma della storia del mondo nel suo complesso, forza decisiva dalla quale sola possono scaturire dei cambiamenti. È importante che nell'Eucaristia parola e presenza reale nel Signore, nei segni, stiano insieme. Che nella parola troviamo anche un insegnamento, che nella nostra preghiera rispondiamo e che in questo modo il precedere di Dio e il nostro andare siano insieme con Lui e di lasciarsi cambiare si intreccino, perché avvenga quel cambiamento dell'uomo che è la più importante condizione per un cambiamento realmente positivo del mondo. Se vogliamo che nel mondo qualcosa vada avanti, questo è possibile solo a partire dall'unità di misura di Dio, che viene a dimorare in noi, che entra in noi come realtà. Nell'Eucaristia gli uomini possono essere plasmati. Per questo le grandi figure che in tutta la storia hanno suscitato vere rivoluzioni di bene sono i santi, che toccati da Cristo hanno portato nel mondo nuovi impulsi.